il libro di Baruch. Queste sono le parole del libro che Baruch, figlio di Neria, figlio di Maasia, figlio di Sedecia, figlio di Asadia, figlio di Chelchia, scrisse in Babilonia nell'anno quinto, il sette del mese, al tempo in cui i Caldei presero Gerusalemme e la incendiarono con il fuoco. Baruch lesse le parole di questo libro alla presenza di Jeconia, figlio di Joiachim, re di Giuda, e alla presenza di tutto il popolo intervenuto per ascoltare la lettura del libro, alla presenza dei potenti, dei figli del re e degli anziani, e alla presenza di tutto il popolo, dal più piccolo al più grande, di tutti coloro, cioè, che dimoravano in Babilonia presso il fiume Sud. Essi piangevano, digiunavano e pregavano dinanzi al Signore. Raccolsero pure un po' di denaro, secondo quanto ciascuno poteva, e lo inviarono a Gerusalemme al sacerdote Joiachim, figlio di Chelchia, figlio di Salom, agli altri sacerdoti e a tutto il popolo che si trovava con loro in Gerusalemme, quando lo stesso Baruch ricevette i vasi della casa del Signore che erano stati asportati dal Tempio per riportarli nel paese di Giuda, il 10 di Sivan. Erano i vasi d'argento che aveva fatto rifare Sedecia, figlio di Giosia, re di Giuda, dopo che Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva deportato da Gerusalemme e condotto in Babilonia Jeconia, i principi, gli artigiani, i nobili e il popolo del paese. Mandarono pure a dire: «Ecco, noi vi rimettiamo un po' di denaro e con esso comprate olocausti, sacrifici per i peccati e incenso. Fate un'oblazione e offritela sull'altare del Signore Dio nostro. Pregate anche per la vita di Nabucodonosor, re di Babilonia, e per la vita di Baldassar, suo figlio, affinché i loro giorni siano sulla terra come i giorni del cielo. Ci dia il Signore forza e illumini i nostri occhi, sicché possiamo vivere all'ombra di Nabucodonosor e all'ombra di Baldassar, suo figlio, così che li possiamo servire per molti anni e trovare grazia dinanzi a loro. Pregate pure per noi il Signore nostro Dio, poiché abbiamo peccato contro il Signore, Dio nostro, e fino a questo giorno non si è ritirato lo sdegno del Signore e la sua ira contro di noi. Leggete pertanto questo libro che noi vi inviamo, facendolo proclamare nella casa del Signore in giorno di festa e in altri giorni opportuni. Direte dunque al Signore nostro Dio la giustizia, a noi invece la confusione del volto come in questo giorno per gli uomini di Giuda e per gli abitanti di Gerusalemme, per i nostri re e per i nostri capi e per i nostri sacerdoti, per i nostri profeti e per i nostri padri, poiché abbiamo peccato dinanzi al Signore, avendo disobbedito a Lui e non avendo ascoltato la voce del Signore Dio nostro, camminando secondo i precetti che il Signore ci aveva messo davanti. Dal giorno in cui il Signore fece uscire i padri nostri dall'Egitto, fino a questo giorno siamo stati ribelli contro il Signore Dio nostro e siamo stati negligenti nell'ascoltare la voce Sua. Perciò ci si sono attaccati i mali e la maledizione che il Signore aveva minacciato a Mosè suo servo nel giorno in cui fece uscire i padri nostri dal paese di Egitto per dare a noi una terra dove scorre latte e miele, come accade in questo giorno. Noi non abbiamo ascoltato la voce del Signore Dio nostro in tutte le parole dei profeti che ci ha inviato, bensì abbiamo seguito ognuno i pensieri del proprio cuore malvagio, servendo divinità straniere e facendo il male agli occhi del Signore, Dio nostro.